chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando. E allora resta ancora 5 minuti. Tanto lo sai che poi saranno ore. E passeremo la notte con i sedili giù e con un'alba in più. Hai smesso di studiare, sei andata a lavorare per farti 4 soldi ed un vestito da sfilata. Io che c'ho un vuoto dentro, tu bella e rovinata da quella storia che ti ha fatto male e ti ha cambiata. Ma adesso non badarci se puoi. Domani è già tardi per noi. E pensaci mentre respiri, stai urlando. E allora resta ancora 5 minuti. Tanto lo sai che poi saranno ore. E passeremo la notte con i sedili giù e con un'alba in più. Ancora 5 minuti. Tanto lo sai che poi saranno ore. E passeremo la notte con i sedili giù e con un'alba in più. Con i sedili giù e con un'alba in più.